Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri abbiamo visto come la quarta generazione di reattori nucleari attualmente allo studio rappresenti la speranza, diciamo, di un nucleare molto meno problematico di quello che conosciamo. Oltre a una maggiore efficienza e sostenibilità economica, in particolare la quarta generazione punta a costruire reattori più sicuri. Per la precisione si parla di sicurezza passiva, cioè che non dipende dall'attivazione di meccanismi oppure dall'intervento umano, come per esempio reattori progettati per spegnersi naturalmente se viene a mancare una fonte di energia esterna. Inoltre vi è la possibilità, questa è la cosa più interessante, di mettere a punto un nuovo ciclo del combustibile che distrugga le scorie più longeve, riducendone il tempo di radiotossicità da 100.000 anni a soli 3 secoli. Nel 2002 la comunità scientifica ha individuato 6 possibili architetture che in misura maggiore o minore rispondono a queste logiche. Quali sono però le loro principali caratteristiche? Bene, riparte da qui la nostra conversazione con Marco Ricotti, professore di ingegneria nucleare al Politecnico di Milano. Sentiamo. Innanzitutto sono quasi tutti reattori veloci, quindi che non sono rallentati dall'acqua, sono molto più energetici. E sono necessari per bruciare le scorie questi reattori veloci, utili, se no non funziona. Sono più utili per bruciare le scorie, effettivamente. Alcuni di questi concetti di reattori di quarta generazione sono raffreddati con dei metalli liquidi, come il sodio e il piombo, ad esempio, e quindi molto efficaci per lo scambio termico. Altri invece usano il gas o addirittura l'acqua ad altissima pressione e ad altissima temperatura. L'ultima tipologia dei reattori utilizza dei salifusi, sempre perché si scaldano ad alta temperatura senza rovinarsi, diciamo. Esatto, diciamo, hanno un'altissima temperatura di ebollizione, quindi rimangono fluidi anche ad altissime temperature. Ecco, di queste 6 possibili architetture, quali sono oggi quelle più vicine all'applicazione e quali le più lontane? Ma io direi che in una ipotetica classifica dei reattori di quarta generazione maggiormente realizzabili in tempi brevi, che vuol dire almeno 15-20 anni da ora, metterei certamente in prima posizione i reattori raffreddati a sodio e a piombo liquido. Questo perché sono stati più sperimentati nel passato rispetto agli altri, possono essere realizzati a bassa pressione e quindi danno una maggior sicurezza. Ecco, ricordiamo che ci sono dei sommergibili russi che da decenni credo utilizzano dei reattori nucleari a piombo, no? La tecnologia al piombo storicamente è stata studiata molto dai russi, mentre il sodio è stato studiato in Europa, in America e anche in Giappone, quindi degli impianti sperimentali sono già stati realizzati, anzi anche dei grossi impianti, pensiamo al Super Phoenix francese. In seconda posizione metterei i reattori a salifusi, anche perché con questi reattori sarebbe più facile realizzare il ciclo di separazione e bruciamento dei rifiuti, e sarebbe possibile anche utilizzare il ciclo a torio. Il torio è molto interessante perché è più diffuso in natura rispetto all'uranio. Non è naturalmente fissile, quindi non si presta a fare bombe? No, infatti, e direi che in ultima posizione, diciamo, tra i reattori che stanno perdendo un po' di interesse, vi sono i reattori a gas ad altissima temperatura, i reattori veloci a gas e poi i reattori ad acqua supercritica, che usando dei gas necessitano di alte pressioni, quindi dal punto di vista della sicurezza offrono meno opportunità anche l'utilizzo di sistemi a sicurezza passiva rispetto ai primi. La sfida più difficile per portare sul campo queste tecnologie qual è? Ma direi che la sfida che accomuna molti, se non tutti, i reattori di quarta generazione è lo studio di nuovi materiali per resistere ad alte temperature, per resistere al danno dei neutroni. In questa partita del nucleare di quarta generazione l'Italia occupa un ruolo o stiamo spettatori? No, l'Italia è presente nello studio e nello sviluppo delle tecnologie di quarta generazione, soprattutto per il reattore a piombo e il reattore a salifusi. Per il reattore a salifusi l'Italia ha appena vinto un progetto europeo, ma è soprattutto presente sullo sviluppo del reattore a piombo perché l'Italia è leader di un consorzio europeo che è guidato da Ansaldo Nucleare, che mira a costruire un reattore dimostrativo per questa tecnologia già nel 2025-2027 insieme a Romania e a Repubblica Ceca, e quindi stiamo giocando un ruolo di primo piano. Ecco, per tranquillizzare tutti, il famoso reattore di cui parlavi nel 2025 verrà fatto in Romania, così sì, esattamente, non partono proteste in Italia. Eccoci in studio, il tempo di salutarci e darci appuntamento a lunedì. Buona serata.